Cuore di fiabe da narrare, venite con me nel mio mondo fatato per sognare. Quella cavalla lì non è la stessa più, non è la stessa più, non è la stessa più. Quella cavalla lì non è la stessa più. Benvenuti a questa nuova puntata della mia trasmissione di successo, c'è posta per me, la trasmissione in cui rispondo alle vostre chiamate. Adesso diamo via alle chiamate mettendomi questa voce suadente stile Giotto e Vento. Vai Graziella. Grazie Carlo, sei molto dolce. Anche se ieri sera non mi hai più richiamata. Beh, parti! Uè, ciao Carlo, senti una cosa. Tengo un grande problema. Sono innamorato perdutamente della figlia del rettore, no? Beh, tieni qualcosa da consigliarmi per poter conquistare il suo cuore? Devi mettere tre civette sul comò. Loro faranno l'amore con la figlia del rettore. Il rettore si ammalò. Ambarabà, cicci cucò. Ai, ma che bella cazzata, Concludiamo. Purtroppo un forte mal di pancia e non posso continuare. Chiedo scusa e me a tutti. Carlo, amore, non mi fare preoccupare. Dalla mia voce puoi capire che sono davvero in ansia. Ehi, non ci ha capito? A chi c'è scatta una cacchetta, messo la cacca in querp. Aladino, telefonando alla bicicletta, le aveva provate davvero tutte. Purtroppo il suo problema rimaneva sempre lo stesso. Non riusciva a togliersi addosso la sua aria da secchione sfigato. Ed era anche napoletano. Insomma, questa battuta non è un tantino razzista. Stito, fa finta che non abbiamo detto niente, tranquillo. Un napoletano che amava anche canzoni neomelodiche. Le sue giornate scorrevano sempre nella stessa maniera. Un trenta e lode, pizza, studio, pizza, un altro trenta e lode. Enzo, dai, cioè, ora... Pizza Enzo, spazzatura. Stiamo un po' esagerando, insomma, caro. Dario, scusami, ma non eri con me a scrivere la sceneggiatura? Non fare il buonista. E il tonista? No, quello farà napoletano, tranquillo. Vabbè, va, continuo un po' io. Un giorno Aladino decise di andare in Piazza dei Cavalieri, la domenica pomeriggio, nella giornata del mercatino appunto. La sera prima era andato a svagarsi in un locale con degli amici, tuttavia era rimasto sconvolto perché questo locale era grande quanto un corridoio di un appartamento e aveva dentro 2500 persone o anche di più. All'interno però c'era dell'Erasmus. E come fare a dire di no a dell'Erasmus? Erasmus. Anche se sono in un corridoio. Erasmus. Dopo aver fatto finta Erasmus di fare l'intellettuale, fermandosi a dialogare su dei libri di filosofia sconosciuti, cercando di baccagliare la ragazza intellettuale di turno, posò il suo sguardo sulle sue tette. Tette. Tette. Vabbè, dai, vogliamoci bene. Tette. Scusate, quando abbiamo la stessa sceneggiatura avevamo davanti una bella ragazza. Ma riprendiamo. Aladino pose il suo sguardo su un tendone particolare. Avvicinandosi, vide il venditore che aveva due tette meravigliose. Tette. La venditrice cercò subito di accaparrarsi l'attenzione dell'ingenuo napoletano. Ah, scusa. Dopo aver venduto la lampada, scomparì nel nulla. Salve, viandante. Ma veramente, io sono solo uno studente, eh. Allora, cosa posso... Ma guarda, questi che c***o... Oh, allora, basta con questi dialoghi. Cioè, qui dobbiamo andare a divertirci a studiare, solo montare, eh. Va bene, dai, cerchiamo di fare qualcosa di sbrigativo senza che la gente se ne accorga, insomma... uno sketch per far ridere il pubblico, mettiamoci in mezzo un po' di rutti e pedi e la gente ride di più, vai. Questo mi piace. Allora Aladino, adesso ti conquisto con la mia brillante parlantina, dopodiché facciamo due sketch per far ridere il pubblico, mettiamo in mezzo un po' di rutti e pedi e la gente ride di più. Ma guarda, questi che cazzo gliel'ha detto che mi chiama Aladino. Comunque io a questo punto sono ammaliato dalla venditrice e decido pure di comprarmi la lampada che tiene sul tavolo, così per poi vedere il tendone che sparisce con tanti effetti speciali, e rimango pure stupito. Poi improvviso un monologo in cui mi soffermo sulle tette. Tette. Vedi, a questo punto abbiamo dimezzato il lavoro dei dialoghi. Sei contento, Dario? Beh, va bene. Allora, a questo punto vediamo che Aladino decise di tornare a casa mesto perché non poteva fare tanti dialoghi come avrebbe voluto. Voleva sempre parlare sto qua. Sì. Ma non perché era proletato, ma perché Cricket sarebbe incazzato. Che è il Cricket? Non lo so. Perché abbiamo scritto Cricket sulla pietra? Il sono sempre felici e contenti. Dario, senti, allora, ho capito che non vuoi fare un cazzo, ma cioè, la storia continua. Allora, nel buio della sua stanza, sotto una canzone neomelodica, decise di farsi una sega. Uè, una sega, tazzulilla e caffè, fili Napoli che muore, una sega bucore meo, zam zam. E, eccitandosi, vedendo la successione di Fibonacci sullo schermo del computer, alcune persone si eccitano solo in questo modo, non bisogna discriminarle ma comprenderle, decise di farsi una sega, ma nell'apice della sua eccitazione non sfregò il suo pistolino. Utilizziamo il termine pistolino per non dire cazzo nel lato, se no Leonardo si incazza. Ma la lampada che aveva comprato dalla venditrice. Sfregando forte forte, si sprigionò dalla lampada un essere possente. Aladino, pensando fosse lo spirito di Fibonacci, sfregò ancora di più la lampada. Ma ad un tratto si girò e, vedendo la foto di Maradona sul comodino che lo stava fissando in maniera cattiva, decise di smettere. Ogni napoletano ha una foto di Maradona sul comodino, anche se non lo ammetteranno mai. Siccome non c'ho voglia di stare a montare i dialoghi e le cose, come dicevo prima, io vi mando la versione ridotta del dialogo dei due. Oh, mio amico napoletano! Con un lungo discorso ti spiego le mie origini che si perdono nella notte dei tempi. Dopodiché ti illustro il perché della mia maledizione della lampada. Poi ti faccio conoscere il mio amico tappeto volante e insieme a lui sorvoliamo la città di Pisa, narrando a tutti i radioascoltatori la bellezza di questo momento toccante ed epico. Ehi, Jane, io mi commuovo la bellezza struggente del tuo dialogo e faccio soffermare i radioascoltatori sulla sofferenza interiore che provo, la sofferenza, descrivendo nel dettaglio ogni mia sensazione. Così facendo, i radioascoltatori fonderanno assieme la bellezza del mio viaggio su un tappeto volante sopra la bellissima, se va per dire, città di Pisa, con la bellezza interiore che ci accompagna nelle nostre scelte quotidiane di tutti i giorni. Tette. Aladino, nonostante il lungo discorso avuto con il genio, non sapeva proprio cosa fare, in quanto il genio stesso gli aveva detto chiaramente che non poteva agire sul cuore delle persone e quindi non poteva far innamorare di lui la figlia del rettore. Tuttavia, poteva esprimere 3 desideri. Allora, Dino, hai capito bene? Chiarbone, puoi esprimere 3 desideri. Vogliamo. Allora, prima di tutto vorrei che tutte le persone che mi prendono in giro per il mio accento, che tra parentesi è bellissimo, inizino a collezionare CD di musica neomelodica, così finalmente quel genere avrà la giusta fama e il giusto riconoscimento che merita. E fatto! E mi è venuta anche voglia di comprarmi il nuovo CD di Gigi Finizio. E poi il signorino desidera? Poi non lo sa, cioè, nella vita tengo tutto di quello di cui ho bisogno. Un rentellote, la pizza capo marrone in cop, la biciclette, l'amicizia con Carlo. Aspetta, devo trovare un modo per conquistare il cuore della figlia del rettore. Ehi, amico, posso consigliarti di elevare il tuo stato? Un semplice studentello sfigato come te non acchiappa. Oi, ma come, genie? Ma come? È l'amore? Ma che cazzo stai a dire? Ma che cazzo dici? L'amore è un trucco? È un trucchetto che hanno inventato per far passare il tempo alle fichette. E poi sei a Pisa. Solo qui puoi trovare solo locali grandi quanto un corridoio. E però pieni di Erasmus. Allora, se permetti, ti consiglio io cosa devi diventare. E fu così che il simpatico Dino diventò un... Dove sei? Già, amici radioascoltatori, avete capito bene. Era diventato, grazie al genio, un vero e proprio... Tuttavia, c'era chi tramava nell'ombra contro il simpatico Aladino, diventato un... Infatti, la venditrice della lampada non era altro che la sorellastra della figlia della cugina del rettore. Non essendo... No, era solo la figlia, scusate. Ecco. Perché non è... Infatti, non essendo la primogenita, non poteva... Non poteva... Non poteva aspirare al trono di rettore. Infatti, anche se la riforma Gelmini dice che per combattere il baronato bisogna tagliare i fondi alle università pubbliche, a Pisa l'università feudo aspettava che il rettore abdicasse sulla primogenita in modo tale che quest'ultima prendesse in mano le redini dell'università aumentando le tasse. Ha ha ha! Con questo lungo discorso spiego ai radioascoltatori le origini del mio male interiore, paragonando il mio malessere a quello del fumo Tia Pascal e facendo capire come le origini della pazzia si annidano dentro il mare che coviamo dentro. I radioascoltatori stessi rimarranno affascinati da questo lungo discorso, così ben costruito, tanto da immedesimarsi nel mio ruolo. Ha ha ha! 3 ore in cerca di un bagno, lei devo andare in bagno. Non c'è nessuno in casa che mi può aprire e sto pagando anche a pure voglio di ascoltare musica di Melodica. E cosa vuoi da me? Chiedi a quel ragazzo con le orecchie grandi che sta arrivando. Io nel frattempo mi ascolto l'ultimo CD di Gigi Finizio. Scusami, ragazzo, come ti chiami? Ehi là! Salve! Sono io, Topolino! Allora, vi va di fare un salto nella mia casa? Sì, ti prego, mi sto cacando addosso. Ah sì? Grandioso! Su, andiamo! Topolino, scusa, ma... Do cazzo sta a casa tua? Sto male! Oh, me l'ero quasi dimenticato! Per far apparire la mia casa, dobbiamo dire la parola magica! Tisca, Tusca, Topolino! Io ti odio. Diciamola insieme. Tisca, Tischi, Tusca, Tusca, Topolino! Topolino! Ecco Topolino, questa è casa. Ah. Qui ti vuoi sentire come a casa tua. Paperino! Paperina! Sono qui! Pippo! Letto! Pluto! Minni! Sono qui! Topolino! Presente! Vi aspettiamo qui tutti per giocare insieme a noi. Mentre Carlo e Topolino stavano approfondendo la loro amicizia, con Carlo che non riusciva più a tenerla in corpo l'amicizia, passava di là la figlia del rettore, quella figlia, no, siamo volgari. E quindi, a un certo punto, mentre passeggiava in Borgo Largo, vide una grossa folla di persone che seguivano un simpatico e magnifico... Che poteva sembrare da lontano un ragazzo napoletano, un semplice ragazzo napoletano. La figlia del rettore, di nome Mina, fu improvvisamente rapita dal suono neomelodico che proveniva dalla folla. Mina, che veniva chiamata Jasmina dai suoi amici e dai clienti notturni per via della passione della musica jazz. Non vi diciamo che ci siamo ispirati da Jasmine, dalla... Oh, basta, sempre le stesse frasi. Decise di avvicinarsi alla folla e rimase affascinata da quel gran pezzo di... che i nostri radioascoltatori avranno già capito di chi si tratta. Di Franco Califano? No. Di Leonardo Fiorini? No. Pitte. Di Pitte. Carlo e Topolino Avvinghiati? No. Ciao, sono Topolino! Ma che inquietante. No, si trattava di Aladino. Quest'ultimo, accortosi che la sua bella lo stava fissando, le dedicò una canzone neomelodica. Dove sei, maledettissimo pezzo di stella cadente, hai colpito il mio cuore, lo sai. Dove sei, senza di te nella vita magari le altre bastavano. Allora, sappiamo che i radioascoltatori non apprezzeranno questa gran diffusione di musica neomelodica, ma possiamo solo dire questo in nostra difesa. Mentre Carlo stava cercando di scappare via dalle grinfie di Topolino. Ciao, sono Topolino! Alla faccia dell'inquietudine. Ciao, sono Topolino! Mina rimase lì cercando di capire il perché fosse così attratta dalla musica neomelodica. Visto che non capiva una bene amata ceppa. Vi diciamo ceppa perché in radio non si può dire una bene amata minchia. Minchia. Ciao, sono Topolino. Ciao, sono Topolino. Tuttavia, in mezzo alla folla c'era chi tramava contro Aladino. Infatti, si annidava tra la gente per bene. Pisana. Il presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama. Egli voleva carpire da Aladino il segreto del successo della musica neomelodica. Perché nelle ultime giornate gli americani erano totalmente assuefatti da questa arma letale. La paura che in realtà la musica neomelodica non era altro che un'arma di Al-Qaeda. In realtà Al-Qaeda si chiamava Al-Qasqa. Ma non chiedetemi perché, non l'ho capito neanch'io. Ma neanch'io. Io perché... sì. Ma perché ci abbiamo messo sta battuta? Scusa. Non lo so. Ma che... Baracca decise di agire distinto. Si scaraventò subito contro Aladino, ma cadde per terra e fu circondato da... Vukumbra, che non l'avrebbero fatto rialzare da terra se non avesse comprato almeno 20 accendini. Baracca, cercando di salvarsi, fece quello che tutti avrebbero fatto in quelle condizioni. Invocò il signor Oscuro. Segreteria telefonica di Leonardo. Il signor Oscuro da lei invocato non è al momento disponibile. La preghiamo di cavarsela da solo. Inizia a fumare, stupida Baracca! Domani! Baracca, visto che la sua ultima speranza era svanita, ancora circondato da Vukumbra, decise di gridare a squarciagola il nome del suo eroe d'infanzia, David Hasselhoff. Vide da lontano un uomo che correva al rallentatore. E immaginatevi la musica di Baywatch, perché una persona doveva... Quindi adesso metteremo... Dove sei? L'uomo che sembrava provenire dall'anno era pieno di forti e possenti nutrie che penzolavano dal suo corpo scolpito. Mentre l'uomo con le sue nutrie scolpite avanza al rallentatore, mandiamo la pubblicità. Pubblicità spaccia monkey! Si vede che l'abbiamo montata all'ultimo sto puntata. Salve, benvenuti a questa puntata di Spaccia Monkeys. Oggi parliamo degli orangotango e di come si rapportano al genere femminile di orangotango. Mi fate perdere il filo. Di solito gli orangotango sono del sud. E al richiamo dell'orangotango del sud, che preparano la pastiera, spruzzando di tanto in tanto un po' di feromoni, cercano l'accoppiamento. È un'ottima colonna sonora per l'accoppiamento degli orangotango, la troviamo nella serie di successo Battlestar Galactica, un'opera del buon McBeary, che ha iniziato producendo, per l'appunto, musica neomelodica aliena. Adesso sarò Aladino con i miei scopi malvagi. Tagliatemi la testa. Giulia, ma che c'entra? Ma non lo so, solo un po' di mal di testa, un po' di mal di gola. È un'ottima colonna sonora per il mal di testa, la ritroviamo nel telefilm di successo Twin Peaks, il cui autore ha iniziato producendo anche lui musica neomelodica. Dove sei? Maledetta. Basta questa musica neomelodica, basta che dobbiamo parlare di Sesso tra le scimmie. È un'ottima colonna sonora per il Sesso tra le scimmie, la ritroviamo nella serie di successo Giamburrasca. Giamburrasca, quanto sesso che mi ispira. Basta Annalisa, datti una calmata, tagliatela la testa. Ma tu non avevi mal di testa. Scusatemi, io vi lascio discutere, vado perché c'è un rango che mi sta affossando in maniera strana. Giulia, ma tu sapevi che siamo nel bel mezzo della stagione degli accoppiamenti? Guarda, guarda, guarda! Scusa, ma uno spazietto per me, no, eh? Scusate, cosa ci fa un orangotango in studio? Potrebbe venire la vicina e potrebbe anche piacerle. Basta! Ve lo dico per l'ultima volta, adesso chiamo la polizia! Ehi, ma quello peloso è Carlo? No, è un orangotango? Vabbè, va. Quasi quasi mi infilo pure io, la polizia la chiamo dopo. Toda gioia, toda bellezza. Pubblicità progresso! Ciao, sono Innocenzo. Probabilmente vi ricorderete di me in film come Alla fine arriva la trombata, oppure Aspetta ancora la trombata 2, oppure in collaborazione con Alisa ti presento i miei genitali. Ricordate, se dovete scrivere una sceneggiatura per un programma alla radio, non andate all'Orso Bruno, perché l'ultima volta ci hanno fermato 15 cucumbra e alla fine, proprio alla fine, ho dovuto abbandonare Roberto Garofalo per riuscire a sfuggire. Mi raccomando, portate Roberto Garofalo con voi, perché Roberto Garofalo vi vuole bene, vi ama e ci ama. E non perdete il mio ultimo film e non aprite quella fessura. Fine pubblicità! E adesso torniamo a noi, sarebbe anche ora direi. Vi ricordate dove eravamo rimasti? Sì. No. Ciao, sono Topolino! Basta Topolino, hai rotto! Anche se fra te e me c'era solo sesso. Cosa? So che quando stavi con me pensavi a Milly. Vabbè Dario, c'è troppo casino, ho capito. La puntata è stata fatta male e sono un po' emozionato. Vado a bere un po' d'acqua. Comunque, senti, amico mio, ti volevo ringraziare perché sei uno dei pochi che non mi vuole sparare all'improvviso. Sei un bel amico. Tranquillo Enzo, avviati pure. Oh, non girarti. Eppure, mentre mi allontano con fare pensoso, sento una strana sensazione di morte. Pollo? No. Il pollo è andato a male, sì. Vado e non mi giro, perché tu sei un vero amico. Ciao Enzo. Ciao Dario. Ciao. Sai che mi piacerebbe tantissimo far parte del tuo programma come voce narrante? Purtroppo però, ho visto che siete già in due. Oh, due chi? Tu sì, che sei un vero orangotango. Baracca quindi aspettò per due giorni a terra e quando David Hasselhoff arrivò fu estremamente felice, peccato che quest'ultimo continuò a correre al rallentatore passando oltre e Baracca rimase lì per sempre circondato da Vukumbra con strano orangotango in lontananza. Chi di voi camminando a Borgo Stretto non ha visto il presidente degli Stati Uniti per terra circondato da Vukumbra chiedendo l'aiuto di David Hasselhoff con degli orangotango che si accoppiavano in lontananza? Io sì, c'ero. Ma soprattutto, sapete che sono volterrana e come tutti i miei concittadini mangio i cinghiali vivi. mentre si accoppiano. Immaginatevi mentre faccio ciò. Giù le mani. Rimanendo in topic, ma che fine hanno fatto Aladino e Mina? Dite la verità, siamo così bravi a dire stronzate che ve le abbiamo fatto dimenticare? Non è forse così? Forse continuiamo. Aladino e Mina ce la davano dentro come conigli. No, vi abbiamo rovinato il finale? Bene, io l'avevo rovinato, scherzo. Avete proprio ragione, non siamo bravi a dire stronzate. Nessuno immaginava che Aladino e Mina avrebbero scopato alla fine. In lontananza bramava nell'ombra la venditrice ancora in cerca di Aladino. La sua voce era troppo importante per lei. Senza quello splendido suono... Dove sei? Male... Non avrebbe mai potuto utilizzare quella formula magica. Lei era troppo stonata. E invece Aladino... Tette. Per fortuna il signor Oscuro non era ancora disponibile. Ma chi avrebbe salvato Aladino da quel triste... duce... Ma che c'entra? Torrone, no, terribile! Brava! Destino? Finalmente ci siamo arrivati, ci vuole tanto. Nel mentre, Baracca Umana decise di fumare. Scelta ardua che però gli permise di fuggire dalle grinfie degli ormai innumerevoli Wukumpra. Immaginatevi ancora il sottofondo musicale di Baywatch. Insomma, erano passati i giorni e David Hasselhoff stava ancora correndo. E al primo posto con un distacco di 2 secondi da Usain Bolt David Hasselhoff. Da qui è tutto, a voi la linea. Gli altri supereroi della Marvel erano a far colazione nell'orrenda prigione. Qual era la casa di Topolino? Ciao, sono Topolino! E basta! Ce l'avevamo chiesti. Chi avrebbe salvato Aladino? Nessuno! Aladino era spacciato. La venditrice riuscì a rapire Aladino grazie all'aiuto di un esercito di venditori di rose. Sì, sì, quelli che hanno tanto rotto le palle durante la stesura della sceneggiatura. E fu costretto a leggere il terribile testo in napoletano arcaico che iniziava con l'ancora più terribile, terrificante e temibile parola segreta. Uè! Uè! Fu costretto a farlo, nonostante amava Mina. Ma la minaccia era di essere costretto ad ascoltare tutti i podcast di Occhi Pallati. Alle 10 la domenica! Tette. Suoni sinistri venivano da tutte le parti. Temporali, streaming disturbati e un affollamento di Wukumpra che ormai avevano iniziato a lavorare anche per la Mondo Libri. Insomma, le piaghe erano una bazzecola a confronto. L'oscuro signore non tardò, tardò ad arrivare come al suo solito e a cantare con il coro di Sanfrediano. Ragazzi, che cosa vi serve? Io non sono cattivo. Leo, scusa, ci sono alcuni problemi audio. Problemi audio? Aladino, aiutato da 2 aspiranti dei Fantastici 4, Simba e Crick, riuscirono a dare un altro lieto fine a questa inutile storia senza senso, anziché provare a laurearsi. Leo, fermati! Non distruggere Mina! Abbiamo installato Windows 7 su Graziella. Ora va tutto bene e Roberto Garofalo ha fatto anche il sito! Io odio Windows 7! Un Leonardo sempre più adirato cresceva a dismisura, tanto che potevamo descrivere l'immane scena in un lungo dialogo pieno di ossimori e tremendi rododendri. Tanto immagino che sappiate cosa siano gli ossimori. Cosa sono gli ossimori? Anziché lo qual è gli ossimori? Ma ecco che all'improvviso un uomo venne da lontano cercando di salvare Aladino e Jasmina. Era il famoso re Tore, che cercando invano la figlia promessa al trono dell'università, aveva concesso la riduzione delle tasse e maggior spazio per i laboratori studenteschi. Leo, ovvero il potente signor Oscuro, aveva così avuto il benestare all'università e contento di ciò si calmò e rimise Graziella in sesto. Lei, appena riavviata, disse soltanto una parola dolce per il suo padrone. Domani! No, quello era Stefano Scavato. Graziella disse semplicemente... Tette. La venditrice finì in qualche locale angusto all'interno del rettorato e come punizione l'unico punto d'accesso, con il mondo, era... Benvenuti a questa nuova puntata di Occhi Pallati! Enzo sparì dalla circolazione e Dario, ovvero io, non dissi mai che fine avesse fatto. Voglio nessuno vivere. Di voi lo dirà mai. Voglio vivere. O almeno giurai alla polizia che quel cadavere dell'armadio non era il suo vecchio compare siciliano. E Aladino e Jasmina vissero felici e contenti, tranne Carlo, che rimase ancora intrappolato nella casa di Topolino. Ragazzi, mi sentite? Forse sono riuscito a scappare. Ma cosa sta tenendo la mia gamba sinistra? Feila! Sopra! No! A mille ce n'è nel mio cuore di fiabe da narrare. Venite con me nel mio mondo fatato per sognare. Quella cavalla lì non è la stessa più, non è la stessa più, non è la stessa più. Quella cavalla lì non è la stessa più. Salve e benvenuti a questa nuova puntata di Occhi Pallati. Oggi parleremo di musica neomelodica. Chiedo scusa ai radioascoltatori. A quanto pare l'orangotango non aveva ancora finito d'accoppiarsi. Mandiamo in sostituzione un po' di musica russa a 8 bit. Ragazzi, è stato un piacere avermi presentato Aladino. Boh, sono suscitato. Mamma mia. Comunque, come potete vedere, no, ci siamo sbizzarriti tantissimo. Pieni di effetti speciali questa puntata. Sì, no? Infatti, ci siamo resi conto che... Tette. Abbiamo presentato la... Salve a tutti. Non so cosa... E io a questo punto... Vabbè, ora che insomma... Ma io lascio lo streaming aperto, no? Ma si guarda, ci un caffè, ci sta Annalisa, guarda. Sì. Trasmettiamo qua da casa di... Non lo so, ma un po' di musica neomelodica? Sì, guarda. Bella! No, diciamo anche che non siamo fa freddo, quindi bisogna parlare all'interno, direi. Quindi Biancanave. Pensate neve bianca, neve, sì, che bella titanica, bianca, il ghiaccio. Che la cosa bianca bella candida. Ma sentite, un pocherino così per accollare in streaming, vai, tanto per... Sì, tanto, ma ci manca Carlo a fare, ci manca la... Ci manca Carlo, ma Carlo è andato a casa di Topolino, quindi giustamente. Dici, ciao, sono Topolino. Beh, invitiamo tutti a uscire di casa e andiamo a giocare anche ad altre parti. Sottoscrivete magari la voglia, fate venire voglia al click di fare dialoghi, perché insomma... Cricche, no, fare dialoghi. Fai dialoghi, dai, Cricche, fai dialoghi, Cricche, non mi fare morire a metà. Te lo dico con voce solente. Ma soprattutto chi è il Crick? Scusa, infatti. Fai dialoghi. Crick fa dialoghi. No, tu non fare la voce solente. Solo io posso fare. Se io nel frattempo metto anche il sottofondo musicale, che non è male. Ma secondo me telespettatori, quando andate a comprare il latte dovete sempre controllare la data di scadenza. Secondo me i radioascoltatori non hanno... Come ride Leonardo, guardatelo. No, le capite sono poi le vostre battute. Secondo me i radioascoltatori non stanno capendo che c'è, cioè, anzi non hanno capito che cosa gli aspetta per la prossima puntata. No, guarda, vabbè, tanto non capiscono neanche le battute, quindi... Infatti... A me non uccide... Comunque, senti, la prossima puntata dedichiamo, insomma, gran parte dei effetti speciali a varie cose, insomma. Abbiamo tagliato tante cose che metteremo alla prossima puntata. Comunque, vabbè, c'è da notare la nostra bravura di risolvere cose all'ultimo. Ecco, soprattutto i dialoghi, mandati all'ultimo, tra cui uno che non sapete... No, proprio un dialogo che è stato fatto il play su un altro computer. Comunque, eventualmente, dopo, io vorrei ringraziare i ragazzi che ci hanno aiutato per la registrazione, anche quelli che... Sì, infatti ringraziamo Topolino, che è stato molto gentile. Topolino proprio è il magico mondo di Topolino. Esatto. No, vabbè, insomma, Pippo, Graziella, insomma, ovviamente personale. Anche le ragazze di Ridit che ci stanno ascoltando, insomma, che hanno prestato la loro voce, però purtroppo per problemi tecnici. Pensandoci, c'è poca gente che sa cos'è Graziella. Graziella è nei nostri cuori. Graziella ci ama. Graziella stasera ci ha tradito. Non direte a noi. Sì, ha tradito i ragazzi di Ridit, poverino, insomma. Sì, infatti. È là che è apparso Roberto Calogno. Perché lui ci salva in qualsiasi situazione. Ci salverà per sempre, no? Va bene, va. Basta, finito qui, salutiamo. Dai, sono le 11, giusto? Siamo stati anche puntuali. Lo vediamo. Cioè, vabbè. Speriamo, ma io metterei divertito. Metterei 2 chili di canzone non melodica. No, poveri, non ne possono più. Almeno, no, un'altra canzone non melodica ci vuole. No. A me mi dà bene il cervello. Allora, stamattina mi chiama mia zia, mi fa che tempo fa, lo so, faccio wait, fa freddo. Wait, parole magiche. Ma che hai? No, ma com'era quella lì? No, io durante la cosa ho sentito una canzone neomelodica che era bellissima. Quale? Dove che, sei? Che è uscita, no, quella lì che è uscita proprio dal cuore. Ah, concludiamo con questa. No, mai provata. Sì, devi capire che questa qua, abbiamo fatto le ricerche, questa è una canzone napoletana del XII secolo, lo cantavano Fra Cappuccino, e meno male, insomma, diceva uè. E quindi, insomma, ogni mattina si alzava e ad un la grande ora e la bora e cantava questa canzone, capito? Annalisa, New Entry di Annalisa. No, ma te ricordi come fa? È orecchiabile, cioè io la... Sì, me la ricordo anche perché me la stai sbattendo in faccia per dire canta la cosa. Io non ti sbatto nulla in faccia. Ci scusiamo per aver rosso i poi in diretta. No! Ah, cazzo! Enzo è morto per la seconda volta. Evviva! Ah, ma senti il fiume Recco. Aspetta, ma io comunque riproporrei la canzone prima di andare. Quella che quella contro del foglio che mi sta sbattendo in faccia. Ma tu non eri morto, zitto. Basta. Ma sono siciliano, sai, hanno arrestato a fare, quindi la società è immortale. Io sempre dopo morte prima. Ma i coltelli che mi piacciono più. Via, vaga, andiamo. Quella sega è da frilla e caffè. Addio e alla prossima domenica con più effetti speciali. Con più effetti speciali e Biancanana, vai. Biancanana. Domani. Sì. Io devo fare l'esame.